Che confusione, siedi a posto giù. Mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi, non vi fidate. Vedete di donne innamorate. Ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine papagallo siamo lì. Scusa, che ci sposerà il piccolo. Che cos'è? Quanto cosa mi sta succedendo? Sotto al mio paese, che barattola c'è, povera Kitty! Bene, o troppo giovane.

piedi mi schierà. Del campo. Sì. Nessun straniero può entrare al campo. Certo, voi sbagliaste il sentiero. Per caso andavate a trovare Nina Miguel d'Arena. Fermai il cavallo qualche momento appena per rinnovarmi e al caso tentare un baccarà, giocare il vostro nome. Forse che qui si sa il nome della gente. Chance, chance. Sacramento! Impegnato fra voi, Johnson di Sacramento. Grazie. Vi ricordate di me? Sì, se anche voi mi ricordate. E come non potrei, fu bel sentier che vena potrei. Nel tornare ma triste un primo di Gesorino e poi vi dissi andiamo a coglier le more, ma io non venni. È vero, ricordate signore come adesso io il cammino, voi dicevate, non ricordo più. Sì, e non ricordate, dissi che da quell'ora non m'avreste scordato. Avevo scordato mai, mai, mai. Avete seccato! Sono Ren Sheriffo, non mi lascio burlare. E venite a far qui! Ragazzi, uno straniero ricusa a confessare perché si trova al campo. Andiamo pure. Musica! Pipì! quindi e là dentro che balla con quel panni meno fino giunto da Sacramento Lazio, Lazio nel pennone l'hanno appeso a me e son morto figlio di cane mostraci la tua lunida faccia tu sei con Ramirez un fuggito lo chiamo se volete vi porto sulla sua traccia questo sudicio ladro ci inganna no, non vi inganno Conosci l'ascondiglio? È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnara. Vi mostrerò la strada in nome di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non vi inganno. Se volete vi porto. Lì ti anterò nel dorso la mia navata. Si va. Avremo la tormenta legata e il buon colpo si tenta a cavallo a cavallo non è preso e nel ballo dove si va dove si va si insegue la Rines e loro gli occhi divini e bastano a guardare te Mi sono lasciato prendere per spiarli, mi seguono nel bosco i nostri, resto a dreggio un fischio, se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Ora via! Mm-hmm.

In quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi. E vi lasciano così. Donne, no, il rimondo qui a me. Oh,

Antonic, che si l'ha venuto prender questo sentiero, è vero, Nick, è vero. Mi finisci la traccia, tu non l'hai visto. Dove dunque andato? Dove è la strana? E qui, forse ho sbagliato, quel figlio è una linguaccia. Ma che m'ha detto in giorno? Che il bandito sia giunto. La sua donna! La sua donna! Che? Nina! Nina Miguel Torino! Lo conosci? È l'amante! Quando capimmo d'essere giocati, traemmo dietro Castro prigioniero. E prendemmo il sentier verso le palme. Eravamo aspettati. Nivea da là ci ha fatto vedere il suo ritratto. Ma te... di che ridi? Oh, che nulla, che nulla. Come va niente in te? Che gli si scelta Nina. Vi lasciamo dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. Se volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. La accettai. Era quello il mio destino, ma un giorno m'ho incontrata, ho sognato d'andarvene con Oh,

accetto, sì, avrò. Soperbere come un signore, ma per Dio son tutto nella sede di te. Perso e distrutto, ma se vinco, t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un mazzo nuovo. Son pronto, taglia, a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. È un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Solamente che t'avrò fra le mie braccia. Vedi, vedi, ti vinco. Prestigio, perché vedi con poche cose stavare. Che devo darvi? No. È la mattia, vedo, ma gli chiedi da me. Prestigio, vedo, vedo, perché no. Sei svenuta, la partita è terminata.

racconta, racconta! Racconta! Johnson, come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Ora che facciate presto? Quanto a questo bastano a sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero. E che desideran tutti, vero? Alaccio, corre, sale, corre, sale! Hai saccheggiato tutto il paese! Affobandallato, rubato e ucciso! No! La squadra di Monte Re bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane! Pugnalaste alle spalle il povero Tony! No! Non è vero! Sì! Non mi dici ad ammalle, ucciso un vostro signore! No! Assassino vai! Alla polca, quella notte venisti per rubare con gli occhi e sorriso di vigna riservati chi lei ci ha rubato? Ladro, ladro! Sotto le tira la casse armiate lo scherno della morte non mi metto pensiero e ben voi tutti lo sapete pistola Sciogliete un braccio, mi scozza di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Per la falla ancora passa per voi tempo dritto. Ti ringrazio, sonora, per lei, per lei sola tanto che tutti amate, a voi chiedo una grazia e una promessa che ella non sappia mai come son morto. Tutto sì breve. Bisogna che tu stia sia fatta. trovato il tuo cuore. Io sono Ramona, sarò prima perdono. Vieni. Perdonerai come perdonerete tutti. Non morire. E voi, non mi prendete. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有线频道下面的精彩节目。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。北京市热血。